Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, no, the secret part. The people down below, we all want to know how to play the game of life before we got to go. He looked at me and said, I've pondered long, listening to Mother Nature's song. And let me tell you, son, life ain't just for fun, but if you want to have a ball, here's how you get it done. You got to do. E buonasera, buonasera, eccoci qua, questa è Nervature, io sono Addu, siamo e siete su Radio Wombat, radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate, diciamolo subito perché no, dal sito radiowombat.net, in cui trovate tutti i podcast delle puntate vecchie, di tutte le trasmissioni, trovate un sacco di altre informazioni interessanti nella pagina dei contatti, appunto andate a spulciare il tutto, trovate ovviamente anche lo streaming, che probabilmente state già usando, e invece di solito ci potete ascoltare anche sulle frequenze AM, sulle 13.59 nell'area fiorentina. Dico solo di solito perché abbiamo avuto ultimamente un po' di problemi tecnici per cui c'è stata un'interruzione, ma ora dovrebbe rifunzionare il tutto, e anzi provate ad ascoltarci anche così, magari dalla macchina o dalle vostre radioline, e fateci assolutamente sapere come va, come funziona, come si sente con appunto le AM, e fatecelo sapere dove, bene, per esempio sul pad, che è il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non. Vi ricordo il link direttawombat.vado.li, quindi mi raccomando non esitate a scriverci. Che dire, io quindi sono Addu, oggi siamo lunedì 15 dicembre, ok, 2025 ancora per poco. Questa è Nervature, la trasmissione che vi parla di piante, giardinaggio, biologia, e dipende un po' dalle volte. Oggi che cosa ho preparato per voi? Due cose, quindi la puntata è strutturata in due parti. La prima, concluderò la lettura del racconto L'uomo che piantava gli alberi di Jean Genet, quindi l'abbiamo iniziato la scorsa volta e poi lo concludiamo appunto oggi. E poi invece per la seconda, una grande sorpresa, sono molto contenta di ricondividere un contenuto, un estratto insomma di una puntata di una trasmissione di Radio Onda Rossa, quindi una radio nostra sorella di Roma, e la trasmissione si chiama Gramigna, quindi già comunque un nome interessante, giusto? Per voi ascoltatrici e ascoltatori, ma non sto a spoilerare granché adesso, ne riparliamo dopo. Buon ascolto intanto della fine di questo audiolibro. Thank you.

E quindi ritorno in voce dopo un pochino di musica e spero vi siate calate in questo racconto veramente molto dolce, molto affascinante anche di appunto l'uomo che piantava gli alberi. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, e tramite come sempre il pad, vi ricordo il link è diretto a wombat.vado.li, quindi non esitate a scrivermi, a scriverci. Adesso direi di passare alla quindi seconda parte di puntata, dove, come accennavo in apertura, vi rimando un pezzo, un estratto di una puntata della trasmissione Gramigna, che è una neonata trasmissione su Radio Onda Rossa, quindi la nostra radio sorella di Roma, e trasmissione che si occupa di diffondere, spiegare e anche insegnare canti di lotta e cori appunto di lotta. Quindi una trasmissione veramente molto bella, vi consiglio assolutamente di andarla a cercare dal sito di Radio Onda Rossa. E oggi vi condivido appunto questo estratto di puntata nel quale analizza una canzone in particolare che si chiama L'erba da gram. L'erba da gram si riferisce proprio alla gramigna, per l'appunto. Quindi la gramigna, che è una graminacea spontanea del, insomma, il nostro prato spontaneo classico toscano, molto molto spesso ospita la gramigna, appunto. Nel caso vi interessasse, il nome scientifico è Cynodon dactylon. Se proprio, ecco, vi infognate su queste cose, vi dico anche questa. Quindi l'erba gramigna, spessissimo detestata dai contadini, dagli ortolani in particolare, perché appunto è un'erba spontanea e spesso definita come infestante, perché riesce a stare molto bene in condizioni molto difficili, quali quella di caldo, poca acqua e suoli molto compatti. Quindi si ritorna lì, classicamente in Italia in generale, quindi anche in Toscana, è un'erba molto presente, che appunto più ci sono suoli degradati, magari compattati, magari argillosi, e più chiaramente questa prende il sopravvento sulle altre erbe spontanee. E anche non sulle spontanee, insomma, su tutte. Quindi è una cosiddetta erbaccia, anche se sapete che non mi piace a me questo termine. Comunque questa è una faccia della medaglia, ma l'altra faccia della medaglia è che è un'erba appunto super forte, super strong, è un'erba resistente, quindi c'ha tutto questo anche significato molto molto bello e estremamente affascinante, ed è proprio il significato di cui si serve di più che altro questa canzone L'erba da gram. Io non dico niente di più perché semplicemente appunto questo estratto di... Ecco appunto, scusate, non l'ho detto, quindi la trasmissione che vi rimando ora si chiama proprio Gramigna, proprio perché a quanto pare ha voluto prendere un po' il nome da questa erba resistente e anche da questa canzone. Quindi come dicevo non dico niente di più, tanto appunto la voce che sentirete adesso spiega nei minimi dettagli il tutto in modo veramente... ottimo, per cui vi lascio a questa voce, ci risentiamo tra poco. Ed eccoci a un'altra puntata di Gramigna, cori e canti di lotta. Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87.9. E ci scusiamo per il disagio tecnico che ci ha impedito di andare in onda la scorsa settimana. Eccoci tornate con una nuova puntata che abbiamo pensato di aprire con una presentazione del nome della trasmissione. E infatti la trovate sul sito di Radio Onda Rossa per chi appunto volesse recuperare le registrazioni delle puntate passate, Gramigna, e introduciamo dunque la canzone e il gruppo che portiamo nel cuore che ha ispirato questo nome. Vi facciamo ascoltare un pezzo e poi ne parliamo. paure e mo. Marito grano e l'hai brandito, al scatre caeres del mio che es la libertà, l'amor che te spero, guardo la verità, cal segre l'uriero, lucros del balat, grano la miserio con fluris lublate. Es la libertà, l'amor che te spero, guardo la verità, cal segre l'uriero, lucros del balat, grano la miserio con fluris lublate. Es de lo seluno, ne vere la fin, ne per empaduno, cerca luca mi. L'usta tu sembruno del sera al mattin, la bestia osteruno più di sto canie. E se lo stellino ne terre la fin, ne terre in pagino, cerca lucca mi. L'usta tu sembruno del sera al mattin, la bestia osteruno più di sto canie. E esci da tallero che è sua libertà, tu vieni in uriero porto la verità. La vita te spero, de grossa in palazzo, tu mi c'è la miseria con grano. E ci va davvero che sta libertà, tu vieni tu nero porto la verità, la vita te spero, te croce in balà, tu mi tra video manca l'oruga. l'erbo da gra. Abbiamo appena ascoltato L'erbo da gram, una canzone di Lou Barru, un gruppo di polifonia occitana che si presenta così. I cantanti e le cantanti di Barru si iscrivono con forza nel movimento delle nuove polifonie occitane. Il loro repertorio, esclusivamente costituito da composizioni originali, trasporta il pubblico verso delle sonorità contemporanee e streganti, in cui voce e percussioni si mischiano. Questa creazione collettiva è ispirata al repertorio poetico occitano e a testi originali. La poesia che abbiamo appena sentito, messa in musica da Barru, è una poesia scritta appunto in occitano del poeta Jean Baudon. E siamo quindi nella parte meridionale della Francia, in questo caso il gruppo in particolare si è formato a Montpellier, ma gira oggi per la Francia, per l'Europa e per il mondo, direi, portando queste canzoni e i loro testi e la loro forza e facendo risuonare con tantissimi altri tradizioni di canto e soprattutto ci sentiamo di riconoscere a questo gruppo di essere davvero capace di stare a contatto con i movimenti e le rivendicazioni portate avanti non solo appunto sul fronte dell'autonomia e dell'autodeterminazione politica, ma della crisi ecologica, ad esempio. E sono infatti un gruppo di persone presenti a titolo individuale e collettivo in tantissimi importanti incontri e occasioni di lotta e di festa in Francia, e ci sentivamo appunto di farle partecipi in qualche modo di questa trasmissione, che sicuramente deve molto anche proprio a questo gruppo e a questa canzone in particolare. Entriamo dunque nel vivo di questo testo e questa musica incredibile. Se ci state seguendo da casa, vi ricordo che potete collegarvi al nostro pad, pad.cisti.org/p/tutteincoro, oppure se è troppo difficile da memorizzare, andate su 10.12.25.vado.li. È un link accorciato che abbiamo creato apposta per facilitare la connessione. Abbiamo inserito, come ogni settimana, i testi delle canzoni che esploreremo insieme, un link per l'ascolto, e potete anche lasciarci qualche commento oppure chiamarci allo 06 49 17 50. Siamo appunto in diretta dallo studio di Radio Onda Rossa in via dei Volsci. E cominciamo subito con la prima strofa di questa canzone occitana che andremo ad esplorare insieme. Ve la rileggo e ve la enuncio, e faremo come al solito un piccolo lavoro di traduzione, che è anche un lavoro di mediazione culturale dove possibile. L'erbo da gram io la cuido sulla croso del paure mort. Marido grano l'hai brandido a scatre caires del meor. E dunque questa erbaccia, questa erba gramigna che dà il titolo alla canzone e anche alla nostra trasmissione, è l'erbo da gram in occitano. Io l'ho colta questa erbaccia sulla croce, sulla tomba del povero morto. Erba maledetta, io l'ho brandita ai quattro angoli del mio giardino, del mio orto. Che vengo paz, che vengo guerro, semeni yeu l'erbo da gram. Venga la pace, venga la guerra, io seminerò erba gramigna. Questa canzone ha anche un titolo alternativo nella versione di Baru, che è la Talvero. La Talvero, una parola che stiamo per incontrare nel corpo della canzone, è un termine che si riferisce al bordo del campo coltivato, inteso diciamo nel senso più complesso di frontiera, e sto pensando per esempio al senso della frontiera nell'opera di una poeta e ricercatrice come Gloria Anzaldúa. Se chi ci ascolta ha familiarità con la frontiera come luogo concreto ma anche metaforico di intreccio e di sperimentazione, di un'ibridità insomma generativa e di un margine potente. Tutti questi significati stanno nella Talvera occitana e in questa canzone. L'invito di questa trasmissione infatti è proprio quello alla coltivazione di piante incoltivabili e di esseri assolutamente ribelli. E infatti la strofa seguente della canzone ci dice: «È sulla Talvero che è la libertà». È proprio sulla Talvera, quindi sull'orlo, sul bordo del campo coltivato, che sta la libertà. «L'amor che te spero, guardo la verità». «La morte che t'aspetta, detiene la verità». «Cal segre l'uriero, lucrus del valat». «Grano la miseria con fluris lublat». Bisogna seguire questo bordo, il bordo del il fondo della valle. Grana la piove la miseria quando fiorisce il grano. Abbiamo qui una critica, diciamo, abbastanza complessa, così ci risuona alla domesticazione dell'agricoltura. Estelos en luna ne verem la fin, vedremo la fine delle stelle senza luna. Ne perdrem pas uno, cercam lu camin. Non ne perderemo una, cerchiamo il cammino. Lu sel tozzo in gruno del ser al matin, la bestio feruno più dis lucanin. Il cielo si frantuma, diciamo, dalla sera al mattino, la bestia feroce puzza di cane. Anche qui diciamo un'altra critica a quella domesticazione dell'allevamento, dell'agricoltura e delle specie umane nei confronti anche delle altre, oltre che di se stessa. E di nuovo è sulla Talvero che è la libertà, sul bordo del campo coltivato che troviamo la libertà. D'oriero in oriero porto la verità, e di bordo in bordo porta la verità. La vita ti aspetta nel fondo della valle, la vido te spero de crusen valat, volis la miseria con grano lublat. E di nuovo viene la miseria quando il grano dà i suoi frutti. E al vostre segle della RAM, qui si affonda, diciamo, nella critica al capitalismo radicato in una cultura sedentaria e basata sull'agricoltura. Al vostro secolo del ferro, la RAM è inteso come ferro ma come metallo in generale lo possiamo intendere, quindi si aggiunge, diciamo, questa componente nella ricostruzione diciamo dell'evoluzione storica della maggior parte delle società umane che conosciamo. Al vostro secolo del ferro, semeni yeu l'erbo da gram. Io semino erba gramigna. Che vengo paz, che vengo guerro, venga la pace, venga la guerra, semeni yeu l'erbo da gram. Io seminerò erba gramigna. E poi si riprende sulla prima strofa: l'erbo da gram io la cuido, l'erba gramigna io l'ho colta sulla croce del povero morto, eccetera, eccetera. Vi invito ad andare a cercare il testo. E la canzone e la poesia si chiudono poi con delle frasi che lasciano, insomma, dei puntini di sospensione. E lu gran ven della miseria, è il grande vento della miseria, le scompiglio sulla mio terra. sparpaglia questa erba gramigna sulla mia terra. Al vostre segle della ram, al vostro secolo di ferro, semeni io l'erbo da gram. Io seminerò erba gramigna. E questo sicuramente ci fa pensare un po' anche alle proposte indigene, e sto ripensando insomma alla Anticop 30, ma tante altre occasioni in cui alle armi e al capitalismo militarizzato high-tech ci si oppone anche e soprattutto con la difesa dei corpi e della terra. Ecco, quindi avete sentito appunto la prima parte di puntata della trasmissione Gramigna e ora vi lascio un ultimo piccolissimo estratto in cui appunto è semplicemente il proseguo della puntata che avete sentito finora. Vi lascio solo un pezzettino perché giusto per darvi l'idea di in che cosa consiste effettivamente questa trasmissione di Onda Rossa. E perché la trovo veramente super originale, con un format molto molto carino, molto divertente, però ecco, non l'ho voluta mettere per intero qui oggi su Nervature, giusto per una questione di competenza di argomenti, ecco. Però appunto vi faccio sentire qualche secondo per darvi l'idea, quindi magari vi viene anche di più la curiosità di andarvela a sentire poi per intero. E riascoltiamo il pezzo iniziale della canzone per cantarla insieme, visto che è una trasmissione di cori e canti di lotta. Abbiamo preso il tempo insomma per esplorare questo testo abbastanza complesso, ma siamo qui per cantare. E dunque, l'erbo da gram, io la cuido sulla croce del pauremo. Quindi l'erba gramigna io l'ho colta sulla croce del povero morto, sempre sulla stessa melodia. Marido grano io l'hai brondido a scatre caires del mio. Adesso forse avete notato sul finale dell'estratto musicale che vi ho fatto sentire che la melodia si arricchisce, perché su questo ort finale entra un'altra voce. E ve lo rimando un po'. Ed eccoci quindi giunte alla fine di questa puntata, di questo lunedì 15 dicembre, spero che vi sia piaciuta. Con Nervature non ci risentiamo settimana prossima stavolta, perché come mi sono scordata di ricordare in questa puntata, ma l'avevo già detto alla scorsa, mi prendo diciamo una non brevissima pausa natalizia, per cui in realtà con Nervature ci risentiremo da metà gennaio in poi. Quindi rimanete comunque sempre connesse e io proverò a mettervi in replica, quindi in queste settimane in cui non ci sono vi metterò delle repliche di puntate vecchie, un pochino scelte a modino. Quindi che dire, ci risentiamo a metà gennaio, buon tutto, buone feste, buon anno. In chiusura a questo punto vi metterei un'altra canzone che si chiama A la Huelga Compañeras, che, come forse potete intuire al titolo, è un altro dei cori, il successivo, insomma, analizzato dalla trasmissione, appunto, Gramigna. Quindi buon ascolto e, come sempre, stay wombat! A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí.